Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 11 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è polpette di pesce alla tunisina. Ingredienti per 4 persone. Polpa di pesce già lessato, 500 grammi, ad esempio palombo, merluzzo e dentice. 4 cucchiai di prezzemolo. 2 cipolle medie tritate, 4 cucchiai di farina, 1 uovo, olio di semi di girasole, mezzo cucchiaio di paprika dolce, mezzo cucchiaio di semi di cumino già pestati, mezzo cucchiaio di pepe nero, sale quanto basta. Preparazione: private la polpa del pesce da eventuali lische e tritatela finemente. Mettetela in una terrina con il prezzemolo, le cipolle, l'uovo, il pepe e la paprika, il cumino e il sale. Amalgamate bene il tutto e formate delle piccole polpette. Infarinatele con cura. Mettete abbondante olio nella padella. Quando sarà bollente, aggiungete le polpette fino a farle dorare uniformemente. Toglietele con una paletta, mettetele su una carta per fritti e servitele belle calde. I vini consigliati sono Loco Rotondo, Bianco Valtidone, Bianco Superiore di Tunisia. Servite a 10 gradi centigradi. Questa era la ricetta numero 11 di A Tavola con Fabiola, qui è Radio Big World e vi do appuntamento alla prossima.